Eccoci ritornati, adesso lascio subito il microfono a Barbara Brodo per il momento delle ricette per le signore che non hanno molto culio di cucinare come lei, prego. Bentornati carissima amici dai fornelli. No, non dico a voi che vi siete appiccicati le mani riuscendo per aria quel fastidioso odore tipo pollo abbrettato, ma gli amanti della cucina semplice e veloce. Avete notato che ho detto amanti? E certo, dopo che come siete vostri fai mariti, non è cosa da voce. Torniamo al serio. Ah, e se che sei un serio? Allora, dopo questa pausa pasquale... Pasquale, la pausa è finita, ricogliti che devo a Barbara. Che fa? L'uovo Pasquale, e fa l'uovo tu e la regia. Lasciamo stare. Dicevo che dopo queste feste, dopo si è mangiato di tutto e il contrario di tutto, è meglio tenersi leggeri per riacquistare la forma perduta e tornare dalla sporta che siete a rimenso stupi e giù che eravate. Suggerisco allora un pratico brodino di pollo. Non sapete come dissossarlo perché il vostro rapporto con i coltelli è tipo quello là del film di Psycho? Nessun problema. Invece di frantumarvi le mani, aspettate ore di cottura e magari avete pure mezza schifezza, acquistate una confezione di dadi, ne gettate due bugie dentro la casserola con acqua bollita e il gioco è fatto. Questo è cucinato. Continuiamo con le ricette. Dopo questo periodo di intense abbuffate, avrete di certo bisogno di un po' di fibre per riportare il vostro organismo a un metabolismo normale e soprattutto per non vedere processo ogni volta che ci trasite. Cosa c'è di meglio di una minestra di erbe di campo? Ovviamente, per avviare il vostro senso di arrendamento in stile piccione ubriaco in goma vigile che vi porterebbe a svalirvi alla montagnola o ai mancusi Appennino, vi consiglio di recarvi al Sidis, al banco delle verdure di Comba Francisco, dove vi farà gustare la migliore verdura selvatica raccolta nei territori incendiati della scorsa stagione. L'utilizzo di schiuma antincendio e la naturale presenza di cinnari di mucchio conferirà alla vostra minestra un sapore deciso e particolare che, se non vi manda dritto al pronto soccorso, potete star certi che una seduta del gabinetto non ve la toglie nessuno. Tutto è cucinato! Bene, per questa puntata è tutto. Care cacce dei fornelli, vi lascio queste ricette e vi saluto affettuosamente. Scusate se vado di fretta, ma un amico mi ha avvertito dell'imminente arrivo dei NAS ed è meglio cambiare aria. Pasqua! Fui, e la faccia porti servizio! Che fa? Fumo!